YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera Daniele, in diretta anche il 27 di dicembre. E soprattutto sotto la neve, sotto finalmente. No, però chissà, dai, sei arrivato da fuori, ha un po' smesso però a Milano. Ah, no, era perché stavo lavorando. Meno male, va bene, la neve però è arrivata nel nord, siamo tutti contenti. Questa è la trasmissione che vi fa sentire? Il meglio, il peggio della settimana tra TV, Web TV, Social TV, anche il perdibile, l'imperdibilissimo e il perdibile. E non facciamo le classifiche di fine anno, non facciamo i bilanci. No, qualche bilancetto forse lo facciamo. Ma no, l'hai già fatto col grande Franco Bagnasco all'inizio. Sì, grande Bagnasco, il canta ci facciamo dei regali. Beagles. Ci facciamo dei regali, sì, ci facciamo, facciamo il regalo di avere un ospite straordinario. Io mi sono già messa la maglietta dei suoi live, sono già pronta. E ce l'ho anche per Rocco io. Io me la sono già messa. Allora, però tra pochi minuti, dai. Sì, creiamo la suspense. Creiamo un po' di suspense. Si parlerà un po' di Inghilterra, di Londra. Per aiutare di Londra a capire. Mi piace. Di Londra, Ma prima, allora, hai detto che non vuoi. No. Vabbè, cioè, sì, certo, i nostri account: chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, hashtag Radio Tube. Sì, perché dopo il sabato il villaggio è meglio Radio Tube. Ma anche il sabato il villaggio. Ma anche ISDV, che tu non sai mai dire. Sì. No, dico che semplicemente che assomiglia alla sigla di un partito. Ma non lo è. Parliamo di politica, che è Natale. L'uomo dell'anno è per te. Per me. Poi ti dico chi è per me. Io lo adoro perché ha fatto anche il suo messaggio natalizio. Ma adesso però sta esagerando. Cioè è Ferrero ferrerizzato. Sì, è Ferrero che imita Crozza, che imita Ferrero, che imita Crozza, cioè, che imita Ferrero. Sta come dire, un minuto e nove. E sì, io li ho presi, guarda che tanto, un minuto e nove in radio, eh. È tantissimo. L'hai preso tutto? L'ho preso tutto, lo sentiamo tutto. La benedizione. Fare l'amore compreso. Sì, la benedizione natalizia di Viperetta Ferrero. Salve, sono Massimo Ferrero, quello vero. Stasera vi voglio regalare un augurio speciale. A modo mio vi vorrei dire che per il Santo Natale dovete amare, fare l'amore e mangiare. Un augurio speciale al nostro grande presidente Napolitano, che tutti i giorni con passione e la sua grande energia ci regala fiducia a quest'Italia mia. Tanti auguri, Presidente. Non ci dimentichiamo però Papa Francesco, che con la sua forza interiore sta cercando di fare dei popoli un mondo migliore. Forza Sampdoria! Forza Samp! E come diceva quel grande signore, allegria! Cioè, scusa, Napolitano, sì, il Papa, ma poi sollevava la coppa mentre parlava del Forza Sampdoria, la musichetta l'hai aggiunta tu o c'era? No, c'era la musichetta, anche quella tutta, ha citato Mike Bongiorno. C'è il montaggio, prima è seduto, poi è in piedi con la scrivania, le delirio, cose. Il delirio, è un danno di Crozza, secondo me. Non so. Non si capisce se è Crozza. Si tirano la volata a vicenda. Comunque, allora, secondo me, comunque, personaggio dell'anno, Massimo Ferrero, Viperetta. Per te, invece, per me, personaggio per dell'anno, del secolo, del millennio, di qualunque cosa, è per me, lo sai chi è, no? Ma non è... Perché per te è amore, perché è amore, è una cosa diversa, tu lo ami. Sì, è amore, una forma di amore. Ma soprattutto ha svelato un lato del suo carattere nuovo, capito? Un lato tenero, un lato di dialogo nei confronti delle nuove generazioni. Di chi stiamo parlando? Del filosofo di Setúbal, José Mourinho. Che cosa ha combinato Mourinho? No, niente, semplicemente ha fatto una specie di selfie con un bambino. Dopodiché il bambino gli ha chiesto: posso fare una domanda? E lui ha detto: la domanda è difficile o facile? Quindi sì, ha fatto un allora po' dai, simpatico. Sentiamola, poi sentiamo. Traduciamo per chi non capisse cosa ovvia, ha detto peraltro. José Mourinho, eccolo qua. Can I ask you a question, please? Depends, is difficult or easy? Difficult. So, what's good? Best moment in football. Doesn't have to involve Chelsea, but what's your best moment in My football? My best moment? Yeah. When I won the Champions League with Inter. That's a... See ya. Allora il bambino emozionato, le ha chiesto qual è stato, mi ha detto che la domanda è difficile, sì, però sì, qual è stato il momento, cioè, più bello, ma che riguarda il calcio ma non solo, qual è stato il momento più bello per Mourinho? E secondo te uno che adesso allena un'altra squadra, che nel frattempo ha vinto altre cose, che cosa risponde? Beh, non lo so cosa avrà detto. Ovviamente risponde quando ha vinto la Champions League con l'Inter. Ma guarda, avanti alle nuove generazioni. Bah, io mi trasferirei. Le nuovissime generazioni. Mi trasferirei, andrei, per esempio, in Inghilterra, esatto, sì, a Buckingham Palace, sì, c'è una regina giovanissima. Sì, sì, rottamazione, tutti nuovi, cosa tutti dici? Nuovi, non tutta si dice, gente, guarda, nuova. Oh, c'è l'esa maestà. 88 mi pare che ne abbia tipo. No, non si dice l'età di una signora, tantomeno di una regina. Comunque boia. E tra l'altro questo lo usiamo per avvicinarsi a Londra. Sì, cioè, no, dire, ma per il prossimo ospite ma lei non, niente, non se ne andrà mai. Lei è incollata col vino. No, ma che cattiveria. Ma io l'adoro. Ma è così tenera. Si è anche commossa, vestitino. Dicono che è fredda. No, ma realtà, no, bisnonna. Ma non lo so, è la regina. Allora, c'ha un vestitino lilla. Lo mostriamo, sì, alla radio. Una bella collanina di perle che fa sempre chic. Voi che vi occupate di cinema, come si dice quando dietro si vede lo sfondo? Non è un muro, è tante, c'è come un lunghissimo corridoio, c'è la via di fuga della prospettiva, tipo Botticelli. Lei con questo lillino che solo una regina inglese può mettere. A un certo punto c'è un cambio di inquadratura e lei segue il cambio di inquadratura. Oh, ma guarda che lei, cioè, la regina d'Inghilterra, ovviamente, Queen Elizabeth, 45 anni che fa il discorso, quindi 1952. È rodata come, sì, perché allora ho fatto tutte le mie ricerche. Perché noi diciamo vabbè, YouTube, i messaggi, le cose. Allora, no, il messaggio di Natale è una tradizione iniziata nel 32 alla radio, Giorgio V. Certo. Poi lei la prima volta l'ha fatto il 25 dicembre 52 e Giorgio V era mancato da 11 mesi. Oh, lei lì è la regina, che tra l'altro ha fatto proprio un bel discorso, era stato registrato a novembre, perché viene, tra l'altro, molto studiato, molto studiato. Dai, molto anche per i social, per, sì, i consigli, lei, lei è straordinaria, dai, ascoltiamone un pezzettino, poi spieghiamo due o tre cose. No, solo un pezzettino, anche un pezzettino di inno, perché, sì, perché certo, la regina è la regina. Of the old Coventry Cathedral is a sculpture of a man and a woman reaching out to embrace each other. The sculpture was inspired by the story of a woman who crossed Europe on foot after the war to find her husband. E questo è l'inglese della regina, cioè questo è l'inglese vero, cioè, da anche linguista, uno, questo è l'inglese della regina. Beh, straordinario, tra l'altro ci sono un sacco di particolarità che riguardano il messaggio di Natale, perché veniva prima prodotto solo dalla BBC, poi hanno fatto un'alternanza anche con le altre televisioni, poi mano a mano sono arrivati i social, è arrivato il 3D, te la ricordi la regina con gli occhialini del 3D? Certo. È una tradizione bellissima e io sai qual è la cosa bene. Bella di questi discorsi? È che lei è regina, deve parlare non troppo dell'attualità, quindi allude all'attualità, quindi questo discorso vola molto alto sulla riconciliazione in senso generale, però in realtà ci sono un sacco di allusioni all'attualità. Ma tu mi guardi male, perché nonostante la neve c'è il traffico. Eh sì, c'è il traffico, guarda, 17:14:48, perché noi siamo in diretta anche in questo sabato 27 dicembre e dopo c'è l'ospite che noi abbiamo preso sull'autostrada tra Brescia e Torino. Sì, sì, tra Brescia e Torino, perché però questa sera sarà a Torino, ma adesso è qua e tra poco ci spiegherà anche perché questa sera sarà a Torino. Adesso è il momento di informarci su cosa sta succedendo su strade e autostrade, particolarmente difficile traffico, la situazione del villaggio. Sì, sì, traffico del villaggio. Radio Tube. Eccoci insieme. Allora, adesso io ho provato a fare un selfie, non sono molto brava. Adesso la posto della la foto. Maglietta? Sì, della maglietta, l'ho messa. Quindi adesso intanto posto la foto della maglietta su Twitter. E per entrare in atmosfera, vabbè, abbiamo già parlato della regina d'Inghilterra, quindi già ci siamo trasferiti a Londra. Ma cosa andiamo a fare a Londra? Vabbè, non ci andiamo. Non ci andiamo? No, che ci andiamo a fare a Londra? Ecco qua. ci vado a fare a Londra. Io sto bene qui con me, con gli amici e la mia donna. Voglia di partire non ce n'è. Succede di tutto oggi in questo studio del sabato Omar del villaggio. Eccolo qua, no. Omar Pedrini. No, perché no. Devi sapere, Omar, che noi facciamo le riunioni via email, no? Ci scriviamo le cose, continuiamo. Cosa facciamo? Allora, cosa facciamo l'ultima puntata dell'anno? Allora, dobbiamo fare i bilanci, dobbiamo fare il meglio di, il peggio di, il meglio di lo faremo, il tre, tutto. Poi alla fine ci siamo detti, senti, facciamo così, ci facciamo un bel regalo, lo facciamo ai nostri radioascoltatori, Omar Pedrini. Ma sì, e dai. E lui ha detto sì. Sì, sì, sì. No, allora in realtà le riunioni avvengono contemporaneamente via mail, SM, tutto. Sì. E poi andiamo in confusione perché ci sono tutti i canali aperti. Allora abbiamo controllato tutte le tue date. Infatti io gli ho detto, guarda, apro il suo sito e controllo, e anche la pagina Facebook, perché lui è molto social. Vediamo dov'è il 27 sera, perché sai, in diretta il 27 dicembre mica, cioè adesso chissà se c'è. E abbiamo scoperto che eri a Torino, quindi ho detto, vabbè. Beh, Brescia, Torino, Milano in mezzo. Noi siamo proprio all'uscita. Della A4 vicino all'uscita di Viale Certosa, ci siamo. E che ci vai a fare a Torino? Omar? C'era di mezzo solo la neve. Sì, ne hai trovata parecchio. Abbastanza, devo dire, da Brescia fino a Bergamo, dopo Bergamo. A Milano invece pulito, pioggia. Sì, alla fine sì. Bellissima questa sera, che l'occasione di questa sera del concerto. Che ci vai concerto a fare a Torino, visto che non sei andata a Londra? Faremo un concerto benefit con tanti amici degli Statuto, che sono i protagonisti della sera, celebre mod band italiana. In quanto, ecco, benefit per pro mamma del cantante di Oscar. Bellissimo. Che è un'anziana signora torinese che è stata rapinata. Ecco, questo è un po' meno bello. Da due truffata, più che rapinata, da due gentiluomini che hanno pensato bene di rubarle la pensione, i risparmi del figlio, qualche gioiello di famiglia. E insomma, questa è diventata poi. E dove lo fate? All'Hiroshima Mon Amour, classico tempio del rock indie torinese. Ecco, quindi tutti quelli che sono a Torino questa sera, anche il nostro amico Roberto che ci ha scritto su Twitter. Sì, Roberto, questa sera a Torino, allora Omar sta arrivando. Ma bello anche questo fatto che siete amici tra colleghi, sì, nella tu ne hai parecchi. È una bella banda di amici, insomma ci saranno. Ci sarà anche Ron, ci saranno anche Cristiano dei Marlene, insomma. Tanti personaggi, Righeira, quindi sono curioso di rincontrare l'aria torinese che si respira. Omar, posso dire bentornato? Perché noi l'ultima volta che ci siamo visti eravamo a Spotorno, sì, tutti e tre. A 19, 20, 21 settembre, e abbiamo passato una serata bellissima in piazza a Spotorno, un tuo bellissimo c'era concerto. C'era la gente persino nelle strade. Io e te abbiamo diviso il palco. Sì, diciamo, sì, indegnamente da parte mia, ma insomma, pieno e poi, di gente. Sì, tantissima gente, tanto affetto. E poi ci ha fatto un po' spaventare. Sì, sì. Poco dopo c'è stato questo incidente durante il concerto. Alla fine, per fortuna, del concerto di Roma, ho avuto un malore che poi si è rivelato un grave attacco, insomma, aortico, cardiaco, diciamo, per i più. E quindi sono dovuto essere operato entro 48 ore. Quindi, operazione. E 15 giorni dopo ci siamo preoccupati tantissimo. Io devo dire, visto che poi parliamo di social, dopo un giorno, qualche ora, io mi sono rassicurata perché tu hai messo una stellina su un tweet. Allora ho detto, sì, ok, va tutto bene. Omar ha messo una stellina, che vuol dire. Sì, ma era già il terzo concerto, non credere? Cioè, poi sappiamo. Già in clinica al Sant'Orsola a Bologna, che saluto e abbraccio tutta la cardiochirurgia. Che bravi. E poi rientra, siamo tutti contenti, e annuncia subito un concerto. Un pazzo Omar. Sì, non sono così pazzo, diciamo pazzerello mi piace, ecco. Con un cuore birichino e malandrino come me. Quindi non era proprio un concerto, ma ho cantato qualche canzone, 4-5 brani. e ho messo alla prova il lavoro del mio cardiochirurgo. Vabbè, un crash test, che sarà un chirurgo rock comunque, sì, anzi approfitto. Beh, comunque il suo disco è andato alla grande, no, che poi voglio dire adesso poi si continua a suonarlo, perché sai, sì, che adesso i dischi escono, ma non è che si può solo fare il disco, no, bisogna ricomincerò il lavoro interrotto. Fortunatamente ero quasi a fine tournée, ero la 38esima data e ne mancavano soltanto 3, e sono riuscito a farlo e continueremo il lavoro interrotto su quest'album, che comunque... Ma te l'aspettavi un successo di pubblico così forte? Perché allora, comunque è un rock, non è il classico rock, è un rock particolare, colto. Devo dire che ci speravo, perché erano 8 anni che non uscivo con un album. Mi sono dedicato ad altro in questi anni, con passione. Quindi al cinema, al teatro, alla televisione, alla docenza che indegnamente porto avanti in Cattolica a Milano, e lo sottolineo. Che meraviglia, no, tra l'altro appunto è poesie, perché, poi. Sì. Abbiamo avuto anche Enzo Gentile prima, tutti i colleghi della Cattolica che insegnano. Hai una riunione cose di facoltà praticamente. Sì, no, io parliamo della tua tesi, se vuoi. No, lui mi prende in giro sulla mia tesi di laurea, guarda, sì, una storia infinita. Lo posso dire finalmente. Ogni volta si sta dunque praticamente lei, a seconda dell'ospite che c'è, ha fatto la tesi, ma un no, argomento che c'entra una con quell'ospite. È sempre solo una, ma essendo io una buon tempona ci ho messo dentro un po' di tutto, perché così era una ragazza fantasiosa. Come il sabato del villaggio. Come il sabato del villaggio. Va bene. Omar, ma non che io voglia ritornare a quei giorni, però visto che abbiamo parlato di social, tu hai avuto una valanga di affetto sui social. Credo che sia stata una cosa veramente colleghi, fan. Quanto possono servire Facebook, Twitter, ad avere la forza di sentire i fan, di sentire i colleghi? Sicuramente molto, molto, perché facciamo un lavoro talmente solitario, no? Scrivere, comporre, sono i momenti in cui poi vai in tournée, ti confronti con il pubblico, ma il nostro lavoro è molto solingo. Quindi difficilmente si percepisce questo, si incontrano i colleghi, ci si dà la mano, un saluto e ci si promette di vedersi quanto prima, ma questo accade raramente. Nei momenti invece importanti si sente che siamo anche noi una famiglia, non c'è rivalità, non ci sono differenze tra i generi che invece magari resistono quando si è in giro a proporre la propria arte, la propria musica, e quindi mi hanno dato molto molto molta forza. Ci ha avuto lo striscione allo stadio, Striscione allo stadio. Ci mancherebbe. Il mio fan club è abbastanza vicino. Infatti stanno anche twittando. Qualcuno c'è, mi anche ha sgridato. Sotorno, peraltro. Sì, mi hanno sgridato perché ho fatto la foto della maglietta, ma non si vede il lupo e non ci stava tutto. Guarda, non ci sta tutto. Cioè il lupo non ci sta tutto. Io ascolterei un altro pezzettino di un brano di questo album, sì. perché il testo è particolarmente importante. Eccola. Italia, dammi la tua mano gelida e alzati, barcollando in tacco 12 e andremo via, via da questo ballo in maschera. Una canzone d'amore dedicata a una bella donna, barcollando in tacco 12. È elegante, ma non si regge tanto sui tacchi. Sì. Ma questa donna si chiama Italia, però. Si chiama Italia, infatti il tacco lo conosciamo. e mi è piaciuto, cioè amo questa canzone ed è diventata involontariamente un singolo, probabilmente per il testo in cui mi occupo un po' del momento politico, nel senso etimologico del termine, del nostro paese, quindi ho sentito l'esigenza anch'io di scrivere qualcosa appellandomi alla grande anima di noi italiani, del nostro paese, in un momento di grande sconforto, quasi di rassegnazione che c'è in tanti di noi. E ho immaginato l'Italia come una bellissima donna violentata, abbandonata in riva al mare, con l'abito stracciato, il rossetto sbavato, il trucco sciolto sugli occhi, che però aveva ancora un alito di vita, il polso debole, e la prendo per mano, le chiedo: come ti chiami? Mi chiamo Italia. Ma secondo te i personaggi insomma, uno che fa il tuo mestiere, che è complicato anche definire, uno che è un artista, ha un ruolo politico, deve averlo? Io credo di no, non debba. C'è chi sostiene che noi dobbiamo, cioè l'entertainment, dobbiamo intrattenere quindi le persone, però dalla grande scuola dei cantautori italiani, insomma dagli anni 70, fine 60, è nata anche questa esigenza. Io sono un anarchico, lo sapete, patentato, e quindi mi occupo di politica quando ne sento l'esigenza. Molto raramente l'ho fatto in 20 anni di carriera. Quest'anno ho sentito la voglia di cantare, quasi di cantare il nostro paese, sì. Bello. Radio Tube. Rieccoci insieme per questa ultima puntata dell'anno in diretta di Radio Tube. L'hai detto l'account di Omar, visto che Twitter è impazzito? Ma certo, cioè perché è Pedrini Omar. Pedrini Omar come... È molto elegante, come, il contrario. Sì, Pedrini Omar. Ma gli avevamo già chiesto come mai era Pedrini Omar. Carducci mi boccerebbe. Sì, beh, no, lo so, però proprio per questo è elegante. Pedrini, no. Sì, però non si può, non si potrebbe. No, nel mattinale della questura, sì. Si può, forse? No. Ma se c'era già un Omar Pedrini. Mi giustifico, ecco, sì. Mi avevano ciullato. Invece c'è solo un Omar Pedrini, chiediamo scusa all'altro, però per noi ce n'è uno. No, però ce n'è solo uno, Invece, chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola, hashtag Radio Tube. Siamo in diretta anche oggi, 27 dicembre, appunto, con Omar Pedrini. Sta per finire il 2014. Io vorrei fare un passetto indietro di 10 anni. Aspetta che leggo cosa vuole fare. Ah! 2004, perché io oggi, anche nel sabato del villaggio, ho deciso che avrei messo solo le canzoni che piacevano a me. Cioè, proprio non ho detto una cosa. Un sacco di Sanremo, peraltro. Beh, no, neanche tanto, però questa sì. Beh, ecco, Conti, hai parlato di Conti. Questa sì. Sì, questa no, questa era, cioè, un'altra. Tu vuoi Jenny a Sanremo? No, abbiamo avuto un misunderstanding io e Valeria Bernardi. È una ma è una roba tra donne, perché siamo Conti, chissà, ci torneresti mai? Esatto, perché volevo chiederti, lo rifaresti? Ci torneresti? Sì, non mi dispiace. Perché no? Sì. Non ho mai avuto. Vedi, i Timoria sono stati il primo gruppo rock indipendente italiano ad andare a Sanremo. Quando io feci questa scelta nel 1991, eravamo dei bimbi noi, però già affermati nel mondo dell'indie, andammo a Sanremo, venimmo sommersi di critiche, perché un gruppo rock non poteva, sì, insomma, in qualche modo confrontarsi con i nemici della musica istituzionale, del pop italiano. Noi andammo a Sanremo con L'uomo che ride, canzone ispirata dall'omonimo libro di Victor Hugo, e dopo la nostra eliminazione, che fu quanto mai immediata dopo l'esibizione, i giornalisti si riunirono e istituirono il premio della critica per i giovani, che non c'era prima del 91, appositamente per noi. Quindi dal 91 ad oggi c'è un premio della critica per gli esordienti, per i giovani, che in qualche modo riporta ai Timoria, alla mia canzone, alla mia band, e ne sono fiero, quindi servì. Da allora abbiamo visto tanti gruppi, certo, del rock italiano arrivare al festival, che però ogni volta si devono scusare, cioè Marta sui tubi, perturbazioni, vabbè, ci vanno, poi coi fan però devono sempre scusarsi, e vabbè, succede sempre, sì, così. Però, ecco, io non l'ho mai appunto pensato, perché credo che sarebbe essere snob, no, al contrario in qualche modo. E mi è piaciuto che hai definito la tua musica indie, hai detto, no? Sì. Tu un cantante può definirla, ti piace definirla, lo accetti? Molti cantanti dicono no, ma però è difficile, molti artisti in genere, no? Non amano le definizioni. È difficile definire la propria musica. Indie appunto sarebbe indipendente, per usare la nostra lingua, e quindi più libera e senza troppe aspettative poi commerciali. Mm-hmm. Quindi quando un disco indie esplode, pensiamo ai Nirvana che hanno cambiato, o ai primi dischi di rock italiano che erano quelli dei Litfiba e dei Timoria, in cui non si credeva nel rock in italiano. Quando esplodemmo, vendemmo dischi d'oro, tante. Da lì l'indie aveva messo i denti, si diceva, o le unghie a qualcuno. E credo che sia importante, sia indipendenza, tutto qua. Poi la musica è bella, è uguale un po' in tutte le sue sfumature. Tanto ormai le aspettative commerciali non ce l'ha più nessuno, quindi ci avevate visto giusto voi. Allora, siccome c'è stato un misunderstanding, mi siete chiarite? No, sì, ma la cosa divertente, io e Valeria, c'è un ascoltatore che twitta. Era Jenny la mia preferita, esatto, quindi grazie l'avevo a Valeria. Per quello. Lo so, infatti, lo so. Vedi, perché io scelgo solo le cose che piacciono a Daniele, vabbè, sono mi piace vedere queste due anime, no, che gli ascoltatori conoscono radiofonica. Vedervi al lavoro insieme è bellissimo. Ah, che meraviglia. Capisco tante dinamiche del programma. Marc Arbonio su, sì, Twitter, questo lo dico a Valeria, ha definito questo una misunderstanding ovation. Grazie, bravo, bellissimo. Grazie Marc Arbonio. Ci chiami. Questa però, lo dicevamo, questa è la mia canzone. Questa, 10 anni sì, fa. Sì. Seduto qui, in solitudine, sai cosa c'è? Che ho imparato a stare bene con me, e la realtà è che ognuno pensa a sé. La verità è un lavoro inutile. L'unica persona che può togliersi la cuffia e non ascoltare Lavoro Inutile, che è autorizzata a farla, io, è l'attore Omar Pedrini, che può togliersi la cuffia. La sa. Sai cosa? Allora, dentro. Io amo questa canzone profondamente, l'ho amata 10 anni fa, ma proprio per me, ma in assoluto è tra le mie canzoni, ma non le tue preferite, in assoluto tra le mie canzoni preferite. Sai che è il testo di un uomo maturo, ma tu l'hai scritta 10 anni fa, cioè tu già 10 anni fa scrivevi seduto qui in solitudine, sai cosa c'è, che ho imparato a stare bene con me. Cioè è un testo di una maturità, di una completezza, sono passati 10 anni. Sì, infatti è una canzone che è stata molto amata, apprezzata, sì, dal mio pubblico, ecco, mi riferisco sempre al mio pubblico. E a Sanremo vinse il premio della critica come miglior testo. Io l'avevo votata. Quindi, io l'avevo grazie. Votata. Io l'avevo sempre, votata. Un'altra statua di sale che ho messo in un Sanremo molto particolare, quello del 2004. Fu un Sanremo, sì, avventurosissimo. Sì. Con tanti, tanti artisti che arrivavano dal mondo indie. Sì. Infatti, ci trovammo lì, sembrava più. Un premio Tenco, una cosa del genere, che è un Sanremo. Sì, sì, sì. Beh, insomma, il premio della critica te l'aveva soffiato Mario Venuti, però anche quella era una bella canzone. Era sì, stata era per, sì, il testo, sì, sì, e Mario per la canzone. Insomma, c'eravamo. Ma prima c'eravamo, dicevi quasi. Che scrivi da solo. Com'è che scrivi le canzoni? Io ho questa curiosità. Ma il Lavoro Inutile è nata da un con la visione di un film per cui mi stavo accapigliando, cercando di dare un concetto di verità, di quante volte nella vita le verità abbiano più sfumature. E c'era un film di Kurosawa che era Le quattro o le cinque verità, molto molto vecchio, in cui una situazione, un omicidio, veniva raccontato da 4-5 testimoni in maniera completamente diversa, sì, ma ognuno diceva la verità, non c'era un mentitore. E da quella riflessione, in un momento un po' particolare, mi era partita la chitarra. Ma scrivi di getto, sì, poi ti metti lì professionalmente alla mattina. Scrivo di getto, mi vengono delle ispirazioni nei momenti. E allo stesso modo canzoni e poesie, o c'è differenza? No, le poesie le considero, ecco, poesia con la P minuscola, non mi ritengo un poeta. Però sono spesso dei testi che poi non diventano canzoni. Ah, bello. E si fermano lì. Poi ci butto dentro anche gli SMS, che per me sono bello, un po' come gli haiku, no? Se pensiamo all'haiku in 17 sillabe giapponese. Beh, anche un tweet allora. Anche il tweet o l'SMS, secondo me, erano il nostro modo occidentale, contemporaneo, di fare dei piccoli haiku, quando ci si mette un po' di poesia, di sentimento. E allora è un gioco, assolutamente, squisitamente un gioco, anche se poi me le chiedono, avendo questi libercoli. L'unico che ebbe fiducia in me fu Baraghini, quindi Stampa Alternativa, che mi stampò questi. L'hai detto, sei un po' anarchico, no? Quindi. Esatto, infatti mi sono trovato benissimo, ho degli aneddoti anche su questo personaggio straordinario, bellissimo. Ma adesso su che cosa punti? Che cosa ti diverte fare nel prossimo, visto che inizia un nuovo anno, no? Bisogna fare. Poi sì. Marta ci dice anche tu cosa farai oltre alle vacanze. No, io solo vacanze. Riprendo ciò che ho interrotto 3 mesi fa per la malattia e l'intervento. Voglio, da febbraio mi hanno dato l'ok, quello vero, i medici. Quello che rispetti, cioè, prima lo violi, esatto, dopo sì, lo rispetti, però è uguale. Quello vero è bellissimo. Quello, ricomincerò la tournée, mi toglierò la soddisfazione di suonare a Londra, che era già prevista e non ci ancora annunciata. A Londra. Quindi farò questo concerto con un po' di ospiti inglesi, e questa è una cosa che mi stimola tanto. E poi credo che inciderò anche con qualcuno di questi personaggi. E no, perché l'altra volta l'abbiamo raccontato che è il produttore degli Oasis, ha praticamente convinto lui a... Sì, ho la fortuna di... Dopo 8 anni di silenzio mi ero abituato all'idea di fare l'autore, non ho mai voluto scrivere per altri perché sono gelosissimo. Sono gelosissimo delle mie canzoni. Il produttore degli Oasis gli ha detto: tu sei matto, mi è arrivata questa chiamata. Mi è arrivata questa chiamata da là, e da lì è rinato tutto, tant'è che andrò ad incidere ancora qualche canzone a febbraio. Radio Tube, sempre con Daniele Bellasio, sempre con Omar Pedrini in studio, sempre come Marta Cagnola, sì, in questo 27 di dicembre ancora in diretta per prima il Sabato del Villaggio, poi con RadioTube. Ci trovate anche su Twitter ai nostri account @ di Bellasio, @ Marta Cagnola e lunedì, giovedì gnocchi, venerdì di podcast, magro, lunedì podcast www.radio24.it e @ Pedrini Omar, perché Omar Pedrini l'ha già preso, quindi me l'hanno già ciullato con due L. Ma dobbiamo una correzione, una rettifica importantissima. Sì, grazie all'amico L'amico Roberto Pavanello, Rashomon. Sì. Su cui peraltro Marta Cagnola ha fatto la tesi. No, però una volta ho fatto una trasmissione, la trasmissione serale, l'avevo divisa, ho ricevuto un sacco di insulti perché l'avevo divisa a metà tra, non mi ricordo, tipo Rashomon e vacanze di Natale. L'alto e il basso, la solita cosa, sì, l'abbassamento sì, letterario sì, del tono e dello stile. Ma sono stata insultata da tutti. Comunque hai detto che non vuoi fare bilanci, però io vorrei dire che nel 2015 c'è un anniversario. Quale? Sentiamo qualche Fammi nota leggere. Sentiamo l'hai scritto da qualche qualche parte? Nota. No. Ah, sorpresa. Camminando le nostre idee, primo giorno senza più te. Camminando le nostre idee, primo giorno senza più te. Camminando le nostre idee, primo giorno senza più te. Camminando le nostre idee, primo giorno senza più te. Cioè il viso stupito di Omar Pedrini lusingato, mi state facendo venire no, la pelle loca. pubblicata nel 90, quindi nel 2015 fanno 25. Sì, sì, sì, sì, sì. 25 anni dal primo album pubblicato con i Timoria, non è male. Colori che esplodono, 25 anni è no, ma bella... sembra appunto milestone, ieri, però, sì. Però è attualissima. Come dovreste festeggiarlo. Dai, cosa si prova? Sono? Cosa si prova a risentire improvvisamente? Io sinceramente non ci penso mai, perché ho avuto la fortuna di fare il primo disco a 19 anni. Quindi mi rendo conto di questo e ne ho fatti tanti, pur avendo ancora, pur non essendo vecchio. Però mi sembra impossibile quando si guarda dietro. Per fortuna sono una persona che guarda sempre avanti e non ci faccio caso, sennò credo che sentirei il peso di tutti questi. Anche quando mi dicono le canzoni che ho pubblicato, non ho ancora imparato il numero. Però so che ah sono... sì, perché ci sono quelli che ti dicono ah io ne ho pubblicato, sì, ti dicono il numero, sì, esatto. Senti, ma capita, sì, le mie curiosità, il momento delle mie curiosità, capita mai in casa che dici ma adesso metto un disco e metto Colori che esplodono? No, quello, no, quello mai, se non, non è per non qualche, ti senti mai? Per qualche ricerca o magari quando inserisco delle canzoni vecchie in scaletta che vengono molto richieste, vado a riprenderne per studiare il testo e gli accordi. Però ne ho pubblicate più di 300, insomma, e 18 album. Mi meraviglio non tanto di me stesso, ma che il mio pubblico che continui a seguirmi con questo amore e questa pazienza, perché con me ci vuole molta pazienza. Ma tuo figlio li ascolta i tuoi dischi? Non dico tua figlia perché magari è piccinina, sì, hai già rock ma è piccola. Tuo figlio Pablo, invece? Pablo li ascolta, suona in una band. Beh, e sono molto fiero che fa le cover del grande Faber. Dai, bravo. Ecco, gli ho detto, se cover band deve essere, io non amo le cover band. Sì, se deve essere. Se proprio deve essere, fai qualcosa di buono. E suona la chitarra, è anche bravino, lo fa, non l'ho mai sentito suonare. Non l'hai mai sentito? No, non l'ho mai sentito suonare altre cose, se non un paio di canzoni del papà e di Andrea. Beh, ma lì lacrime. Lì grande emozione, sì, ho fatto fatica. Beh, ma deve essere una delle cose più belle, cioè, del mondo. Cioè, sta dicendo figlio... quello che mi ha mandato il video di Rocco. Ma che cosa canta. C'è? Sì, ma quella canzone non l'ho scritta io. No, cioè, però io l'ho già imparata. Ma tu puoi immaginare cosa prova un padre che sente il figlio che suona e canta una canzone scritta dal padre? Ma è una delle cose. Cosa che a te non potrà mai capitare, perché non potrai mai scrivere. Quanto sono stonato io, no? Esatto. Magari. Se la canta qualcun altro, pezzi di frasi, vabbè, comunque andiamo avanti. Beh, però no, è un bello, roba bello, bello, bellissimo, molto, molto bella. Bellissimo, grandissimo, no, no, no, cioè, bello, bello, bello. Grande anche il figlio che ha il coraggio, diciamo, di farlo con naturalezza. Sì, sì, ma lui mi ha sempre visto così, sono gli strumenti in casa mia sono una cosa normale, abbiamo dal bisnonno che faceva il liutaio a Verona, fino alla mia mamma, alla mia nonna, tutti suonano, papà scrive poesie, quindi è una cosa normale in famiglia per noi suonare. Ma Daria è piccinina, ma già si arrampica sul pianoforte che ho in casa. Stupendo. E schiaccia quindi i tasti. Beh, fantastico, fantastico. Ragazzi, però vorrei coinvolgervi anche in uno dei video tipici di RadioTube, perché noi abbiamo sempre i video più diffusi della rete. Ah, più... sì, gli esperimenti, l'angolo degli esperimenti. L'angolo degli esperimenti. Piace anche a Omar. Sì, questo secondo me è molto carino, perché noi spesso seguiamo... sai, in America fanno spesso è una moda fanno delle sorte spesso di candid camera, sì, per capire un po' le reazioni delle persone. Nascondo a volte sono la telecamera, sì, la solita cosa, nascondo la telecamera, vado in giro, faccio una cosa, vedo le reazioni, insomma, i vecchi e Vox, sì, insomma, sì, si faceva candid, sì, camera, sì, sì. Nanni Loy. Insomma, alla base c'è Nanni Loy. Però Josh Paylor Lynn, sì, questo ragazzo ha fatto una cosa che a me è piaciuta tantissimo. Sembra ha un po' Honda, il giocatore del Milan, tu non lo puoi sapere, però è il sosia di Honda. Però mi fido, il sosia di Honda ha fatto questo video, del quale mostriamo solo un pezzettino alla radio perché è in inglese. Lui ha regalato $100 a un senza tetto. Hey, how you doing? Good, how are you? I'm all right. I'm Josh. I'm Thomas. Nice to meet you. Yeah, I just tried to make him up to give me something to eat. Allora, lui a Josh Paylor Lynn ha dato, infatti l'avete sentito, ciao, sono Josh, questi $100 a un senza tetto. Poi l'ha filmato per capire cosa stesse facendo. Quest'uomo è entrato in un liquor store, cioè in un, non potremmo dire, non proprio negozio di liquori come è stato tradotto in italiano, perché sì, è un negozio che vende anche alcolici, ma non solo. E lì il telespettatore dice, no, peccato, hai visto. Questa cosa delusi. Vedi. Ma cosa succede? Ecco qua. There's a lot of people that are just victim of circumstance and they didn't. Quest'uomo nel negozio ha fatto la spesa, ha comprato un sacco di cibo e appena è un uscito un sacco enorme, sì, proprio un sacco, è uscito e l'ha distribuito a tutti gli altri senza tetto. E spiega a Josh, se non erano amici, perché non è che si ferma a parlare con loro, tutti. Cioè proprio porta la cosa e se ne va con una naturalezza incredibile. E poi Josh torna e dice, guarda, scusami, io ti ho filmato, e lui dice, dai, hai pensato che io stessi andando a comprare? Però guarda, per strada ci sono tante persone buone che si sono trovate per strada solo per i casi nella vita. Lui spiega come è capitato a lui e dice, io, tu mi hai dato questi soldi, io li ho spesi come mi sembrava giusto spenderli, cioè ha diviso con tutti gli altri. Allora, a raccontarla sembra una roba retorica e invece andatevi a cercare anche perché Josh è stato stravisto questa cosa, sì quasi 20 milioni di click, ma soprattutto andatevi a googlare Josh Paylor Lynn, proprio L-I-N, perché ha fatto anche un sito per trovare fondi, Help Thomas to get a fresh start, aiutate Thomas, questo signore, a ricominciare da capo. Poi dicono che la rete fa solo stupidaggini, invece per raccogliere dei fondi, perché questa persona è, insomma, si è trovata in difficoltà per ragioni, insomma, le ha spiegate anche lui, bisogna aiutarlo, e quindi per una volta così questo spirito natalizio pervade anche me, che sono così un po' cattivella di solito. Ragazzi, come vola il tempo? È già volato. Quasi volato. Ma quasi senti, volato, posso quasi ultima volato. Domanda? Ma certo. Ce l'hai una storia che ti ronza in testa, che vuoi raccontare, non sai se con musica, non sai se con poesia, non sai se con prosa, non... c'hai una storia? Ma una storia ce l'ho, è un'idea di scrivere un libro, mi è stata proposta questa possibilità, paventata questa possibilità, ma io credo che, ecco, l'editoria, già sia musicale che cartacea o libraria, anche virtuale, sia oberata di opere inutili, quindi non credo di accettarla, però mi piacerebbe raccontare, perché me ne rendo conto quando parlo con i fans o in famiglia, gli incontri fortunati che ho avuto. Io credo di aver avuto la grande fortuna di stare spesso sulle spalle dei giganti, no? Ho collaborato con poeti, personaggi dai quali ho assorbito e imparato molto. E allora a volte, non so, mi chiedono di Veronelli, di Ferlinghetti, di Jodorowsky, e racconto degli aneddoti e vedo la gente molto divertita, molto incuriosita da queste cose. Tant'è che appunto un amico comune, peraltro, mi ha chiesto, perché non le racconti in un libro? Ecco, se vincessi e se riuscissi a vincere questo pudore che invece ho nei confronti di me stesso. Ma come sali su un palco a Torino e hai pudore a scrivere? No, adesso lo convinciamo a scrivere. Sì, a fare la sintesi degli incontri fortunati. Non è un lavoro inutile. Il progetto segreto nel cassetto potrebbe essere quello. Adesso su Twitter tutti ti convinceranno a farlo, ma noi dobbiamo salutare. Sì, dobbiamo salutare tutti. Chiocciola Pedrini Omar. Grazie di essere venuto. Ringraziamo Valeria Bernardi in regia. Mitica Valeria. Dobbiamo fare gli auguri di buon anno a tutti, perché ci ritroviamo in diretta con RadioTube il 10 gennaio. Sì, perché il 3 sembra possibile, ma andiamo in onda un meglio, abbiamo fatto un meglio. Un meglio del peggio, un meglio di noi, sembra un ossimoro. Allora, buon anno a tutti, ci ritroviamo presto con RadioTube, un abbraccio e tutti grazie. Questa sera a Torino. Grazie a tutti, a presto, buon anno. Ciao.